700. Charlotta. Fate una crema con latte decilitri 2, zucchero grammi 30, farina mezza cucchiaiata, uova numero 1, odore di scorza di limone. Fate un siroppo con acqua decilitri 2, zucchero grammi 50, lasciando bollire lo zucchero nell'acqua per 10 minuti. Quando è ghiaccio, strizzategli dentro un limone. Prendete grammi 300 di pan di Spagna e col medesimo, tagliato a fette, con conserve di frutta e con la detta crema, riempite uno stampo da budino ben lavorato. Per ultimo, versateci dentro il detto siroppo per inzuppare il pan di Spagna o savoiardi che siano. E dopo diverse ore, sformatelo e servitelo. È una dose che potrà bastare per 8 persone.